La versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.31 prima di 50 secondi, qui siamo in diretta dagli studi di Radio 24 di Milano, grazie per l'ascolto come sempre e vi dico subito che oggi rompiamo un pochino l'argomento economico fisso della trasmissione perché vi chiediamo un commento all'800240024 o un'opinione al 349-238-6666 con gli sms su un fatto che è avvenuto questa mattina in Parlamento che riguarda la politica estera del nostro paese. Perché che cosa è avvenuto stamattina? Contrariamente a quello che aveva detto Renzi la settimana scorsa, perché il Presidente del Consiglio aveva detto di dichiarare opportuno che si rinviasse il voto di mozioni e risoluzioni parlamentari sull'argomento riconoscimento della Palestina, riconoscimento della forma statuale da parte dell'Italia alla Palestina, sapete che è un punto controverso da decenni e così via, stamattina in realtà si è andati al voto, si è andati al voto. E che cosa è successo? È successo che sono state votate con il sostegno del governo, cioè il governo ha dichiarato di farle proprie, e poi con il voto d'aula, contemporaneamente due documenti. Hanno avuto la maggioranza, o per meglio dire, il documento del PD, su cui c'è stato anche una confluenza di voti dalla sinistra, come se ha preso 300 voti favorevoli e 45 contrari ed è stato approvato con il sostegno del governo. C'era poi un altro documento, presentato da NCD, quindi Alfano, Area Popolare, parlamentari ex Scelta Civica che comunque sono nella maggioranza e moderati e Scelta Civica, e anche questo testo è stato fatto proprio dal governo ed è stato approvato con 237 voti favorevoli e 84 contrari. Allora, il punto è però che questi due documenti dicono cose molto diverse. E quindi, prima domanda che vi faccio, ma che cavolo di figura è per l'Italia nel mondo, un'Italia che è a poche centinaia di chilometri da quello che sta avvenendo in Libia? Avete visto tutti le immagini di quelli dell'ISIS che spaccano statue bimillenarie in Assiria e così via, con quello che succede nel mondo, con il fondamentalismo islamico e così via. Se il Parlamento, ed è legittimo che lo voglia fare, crede che questo sia il momento giusto per riconoscere formalmente la Palestina, io capisco che sia legittimato a farlo. Ricordo a tutti che per Palestina si intendono la somma di due entità geografiche diverse e non attaccate, perché sono separate. Un conto è l'ex striscia di Gaza, da cui gli israeliani si sono ritirati e che è occupata da Hamas, e Hamas pratica il terrorismo, e dall'altra parte c'è la Cisgiordania, che è controllata invece da Al-Fatah, l'ex organizzazione per la liberazione della Palestina, e sapete che tra le due organizzazioni, Hamas e OLP, c'è un contrasto molto forte. Ma mettiamo per ipotesi che davvero il Parlamento italiano decida che questo è il momento giusto per dimostrare, appunto, immagino, a una parte degli stati musulmani, magari a quegli stessi che poi formano la coalizione che insieme all'Egitto interviene intanto in Libia, e quindi Egitto, Emirati e così via, che sia il momento giusto per dare un segnale di equidistanza rispetto alla storica questione tra Israele e palestinesi e voglia riconoscere la Palestina. Posso capirlo, la mia opinione è diversa perché considero Hamas dei terroristi, ma posso capirlo. Ma la cosa che non mi spiego, e vi chiedo a voi seconda domanda, se oltre alla prima, se fosse opportuno votare questo documento oggi, la seconda domanda è: come diavolo possiamo pretendere di avere una voce in capitolo sulle vicende internazionali se contemporaneamente il governo per primo e l'aula parlamentare votano due mozioni che dicono cose diverse? Allora, a questo punto voi mi potreste dire: ma sono così diverse e contrastanti? Giudicate voi. Tento di sintetizzarvi leggendovi i passaggi fondamentali dei due documenti. Il documento, anch'esso approvato, ma che è stato redatto da NCD Area Popolare e che ha avuto i voti di Scelta Civica, del residuo dei parlamentari che ancora si riconoscono in Scelta Civica, non prevede il riconoscimento formale e diretto della Palestina, ma esprime l'indirizzo di chiedere al governo italiano di adoperarsi per che cosa? Perché venga innanzitutto raggiunta un'intesa politica tra Hamas e quelli di Al-Fatah, uno. Due, che entrambi in maniera inequivoca riconoscano lo Stato di Israele. Tre, che entrambi in maniera inequivoca abbandonino ogni violenza nei confronti di Israele. Sapete che in realtà sia Hamas che l'OLP hanno negli statuti il disconoscimento dello Stato di Israele, e quindi che si venga a una soluzione diplomatica fondata su due stati, Israele e Palestina, ma la cui premessa è quella che Hamas deve abbandonare la violenza, deve riconoscere Israele, lo stesso faccia Fatah, e che si mettano d'accordo con Israele. Questo è quello che prevede la mozione NCD Area Popolare Scelta Civica. La mozione del PD invece impegna il governo italiano a continuare a sostenere in ogni sede l'obiettivo della costituzione di uno Stato palestinese. Quindi c'è la richiesta di tutto ciò che è necessario fare in sede internazionale perché venga formalmente riconosciuto lo Stato palestinese, e a questa condizione non si pongono le premesse né di un'intesa innanzitutto tra Hamas e Al-Fatah OLP, che c'è nell'altro documento, né esplicitamente viene chiesto che entrambi levino dai propri statuti le clausole che negano il riconoscimento di Israele, né viene chiesto a entrambi di riconoscere l'abbandono della violenza, né tantomeno viene chiesto che questo venga sancito da un accordo direttamente con Israele. La mozione del PD chiede che il governo italiano faccia tutto il possibile perché si arrivi in ogni sede al riconoscimento, alla costituzione e al riconoscimento di uno Stato in palestinese. Dopodiché si dice che questo Stato palestinese, si esprime l'auspicio, viva in pace, sicurezza e prosperità accanto allo Stato di Israele sulla base del reciproco riconoscimento. Però è un addendum, cioè la cosa fondamentale, molto chiara nel documento del PD, è la costituzione e il riconoscimento a pieno titolo della Palestina come entità statuale. Come vedete, i due documenti dicono davvero cose diverse, cioè tracciano due strade che non possono da nessun punto di vista essere considerate coesistenti, perché sono una contraddizione logica l'una rispetto all'altra, cioè sono proprio due scelte completamente diverse. Eppure questa mattina il governo italiano ha espresso in aula il suo sostegno a entrambe e, come avete visto, vi ho ricordato i numeri, sono state approvate entrambe. Per informazione aggiuntiva, Israele ha subito dichiarato la propria soddisfazione, naturalmente, per l'approvazione della mozione targata NCD Area Popolare e con i voti di Scelta Civica, fingendo di non vedere l'altra, ma di fatto entrambe sono state approvate e recepite dal governo. Allora, chiediamo una prima opinione a un osservatore internazionale critico nei confronti dell'Italia, che contemporaneamente però non è critico per pregiudizio, perché vorrebbe che la voce del nostro paese si facesse apprezzare per chiarezza e con più energia nel concerto internazionale, visto che noi siamo un paese della NATO, ma siamo affacciati sul Mediterraneo, ci abbiamo i problemi vicino e tutto sommato non riusciamo a esercitare un ruolo, non dico di protagonisti, ma neanche di comprimari su molte delle vicende che riguardano il Mediterraneo e il mondo post primavere arabe e ISIS. E con noi per commentarlo Gianni Riotta, inviato della Stampa, che molto ringrazio di essere collegato anche perché c'è la differenza del fuso negli Stati Uniti. Buon pomeriggio e grazie Gianni. Ciao Oscar, buongiorno. Che cosa pensi tu dell'approvazione e del recepimento da parte del governo di questi due documenti che ho spiegato ai nostri ascoltatori, dicono in effetti davvero cose così diverse? Non entro nella questione perché appunto l'hai sintetizzata tu brillantemente, e non è una questione di lana caprina. Che sta succedendo nel linguaggio sempre della diplomazia, che è complicato, tanti fori internazionali, inglesi, francesi, approvano risoluzioni per dire la Palestina diventi Stato, che non hanno nessun altro valore se non un valore importante politico, diplomatico, di mettere pressione su israeliani e su palestinesi perché arrivino a un accordo in Medio Oriente, visto che poi adesso ben altri guai abbiamo con ISIS, con la Libia, eccetera. Quindi il vecchio Medio Oriente lo si vorrebbe pacificare, risolvere il conflitto israelo-palestinese che va avanti da oltre mezzo secolo. Il Parlamento italiano, qual è la debolezza della giornata di oggi? E non prende nessuna posizione, cioè va benissimo approvare un documento sulla falsariga di quello degli inglesi, un'esortazione, noi siamo pronti a riconoscere la Palestina, andate avanti, anche Israele l'ha presa in questo senso. Invece, siccome non abbiamo mai, vediamo tutto in termini del minuscolo dibattito della politica internazionale italiana, diciamo, dal punto di vista italiano, allora il PD ha voluto prendere una posizione più filo-palestinese, gli amici del centro si sono voluti dissociare e dando una pacca sulle spalle a Israele. Il risultato è, quando poi ci si chiede come mai non siamo nel gruppo di contatto che sta facendo il negoziato con l'Iran insieme agli altri sei grandi paesi del mondo, perché andremo a dare una pacca sulla spalla all'Iran un giorno, l'altro dopo la spacca sulla spalla agli americani. Allora, quando diventeremo capaci di parlare in politica internazionale con una sola voce italiana, allora saremo presi sul serio. Da una parte ti chiedo se ti aspettavi questo da Renzi, o se bisogna immaginare che Renzi faccia buon viso a cattivo gioco, vista l'elevata temperatura che c'è innanzitutto nel suo partito in queste stesse ore. È in corso una riunione proprio con i gruppi parlamentari e sai perfettamente, Gianni, che Bersani ieri ha sbattuto la porta. Quindi questo primo aspetto che riguarda la politica interna, però ce n'è un secondo anche che è molto importante, perché nel frattempo i rapporti tra Israele con il premier Bibi Netanyahu e gli Stati Uniti, e in particolare con l'amministrazione Obama, sono veramente ai minimi storici da decenni, visto che stiamo parlando di una visita negli Stati Uniti che fa capo solo ai parlamentari repubblicani e che non solo non tocca, ma è proprio in polemica diretta con la Casa Bianca. Ecco, ti chiedo di unire queste due considerazioni, quella interna e quella diretta dei rapporti tra Israele e America. Per quanto riguarda gli Stati Uniti e Israele, e noi dimentichiamo sempre quelli che fanno gli osservatori di politica internazionale raffinati, quanto poi invece il rapporto personale tra i leader, se si stanno simpatici o antipatici, proprio come al bar, conti. Noi crediamo sempre, Oscar, che contino solo le grandi questioni degli interessi, la geopolitica. Invece Netanyahu, l'ex comando israeliano, e Obama, l'ex attivista dei college, dei campus americani, non si sopportano perché sono troppo diversi, e quindi questo aggiunto ha davvero una cosa grottesca. In più, quello che veramente stavolta è stato, diciamo, lo potremmo definire italiano se vuoi, che i repubblicani e i democratici hanno preso in ostaggio la politica internazionale per prestarsi uno con gli altri, per cui i repubblicani invitano un capo di Stato straniero come Netanyahu a parlare, malgrado sappia che il Presidente non gradisce, e Obama teme che questo saboti il negoziato sul nucleare con l'Iran. È davvero uno spettacolo poco importante, perché è molto, molto, molto brutto, molto brutto. Per quanto riguarda noi italiani, tu mi chiedi di Renzi. Io credo che Renzi, la grande virtù di Renzi e il grande difetto di Renzi è che lui si concentra sempre su quello che viene in quel momento. Mattarella aveva bisogno di un presidente che avesse scelto lui, e è passato Mattarella. E deve tenere insieme unito il partito e rinuncia. Quindi in questo momento a lui, magari sbaglio e chiedo scusa agli ascoltatori, al primo ministro se sbaglio, secondo me a lui in questo momento non gliene può fregare di meno della Palestina, del conflitto in Medio Oriente. Il suo problema è svoltare la fase politica italiana, e quindi anche se gli dicevano di approvare una risoluzione su il mare, animali o su qualunque cosa la votava, e palla lunga e pedalare. Solo che questo, per un paese che è la sesta potenza industriale al mondo, non è possibile. Lui deve purtroppo imparare a tenere 5, 6, 7, 8 temi tutti insieme sul piatto, non un tema per voi. Tu cosa pensi delle accuse che sono roventi sulla scena politica italiana rivolta al fatto che durante il semestre di presidenza il più della posizione italiana, tranne che negli allentamenti della disciplina di finanza pubblica nel nostro paese, obiettivo raggiunto, ma per il resto è stato concentrato nell'ottenere il posto per la Mogherini di un coordinamento della politica estera, difesa e sicurezza dell'Unione Europea, che come si vede poi dal ruolo non incisivo, a volte proprio non presente, della Mogherini ai tavoli veri, quello ucraino, quello iraniano all'inizio e così via, viene considerato in realtà come un cattivo risultato, forse un risultato che non valeva proprio la pena di concentrarsi per portare a casa. Come la pensi su questo? Oscar, diciamo, ci ha dato un ministro degli esteri che io ritengo bravo, perché ritengo che nella rosa possibili Paolo Gentiloni sia uno dei ministri più coscienti delle poste in gioco in questo momento. Magari non un esperto direttamente di politica internazionale, ma che almeno sa oggi qual è la posta in gioco. E io mi trovo in una posizione molto curiosa, perché io sono stato molto critico della ministro Mogherini, perché ho sempre trovato le sue posizioni, come dirti, molto di maniera, cioè c'è in questo momento in corso nel mondo una vera guerra, è uno vero scontro, è una vera battaglia, diciamo, tra principi, interessi, sistemi. Vedevo stamattina presto un sondaggio tra tutti i maggiori esperti di politica internazionale americani, professori università, non è che si tratta di gente col coltello tra i denti, e oltre un terzo di loro prevede una guerra tra Stati Uniti e Cina o Russia nei prossimi 25 anni. Cioè, cosa vuol dire questo? Che è un panorama molto fosco. Allora, ho sempre visto nelle posizioni del ministro Mogherini una debolezza. Cioè, quando lei diceva da ministro ai tempi dell'Ucraina, bisogna il negoziato, la diplomazia. La diplomazia non è il fine della politica internazionale, è il mezzo, con cui la politica internazionale raggiunge certi scopi. Però adesso, Oscar, mi trovo delle volte a difenderla, perché non è che Lady Ashton abbia fatto meglio di lei. Certo, magari lei è ingenua perché diffonde un comunicato in cui dice facciamo subito pace con Putin, e ovviamente io posso anche indicare chi l'ha fatto, ovviamente i polacchi, gli uomini del Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, immediatamente hanno preso quella bozza che Mogherini faceva girare e l'hanno data al Financial Times, che gliel'ha pubblicata. Dico, vi racconto pure chi l'ha fatto, però questi sono di ingenuità della politica internazionale. Però allo stesso tempo quel posto lì purtroppo non ha peso, perché è chiaro che quando si va poi a negoziare con Putin, non è che invitavano Lady Ashton, invitavano prima Schroeder e adesso la Merkel. La Merkel, non c'è dubbio. Ora, adesso abbiamo 60 secondi di informazione stradale, però tu hai scritto l'altro ieri un editoriale che secondo me era molto ispirato, giusto, mi è piaciuto proprio tanto, in cui dicevi però guardate che poi per contare, cioè per far valere un interesse nazionale a tavoli di questa complicazione, innanzitutto bisogna sapere chi si è, cioè bisogna avere una opinione forte della propria identità, della propria storia. Solo di lì nasce la possibilità di giocare davvero un ruolo commisurato al nostro peso, che sarà piccolino ma non è proprio indifferente, sui tavoli internazionali. E mentre dicevi l'ISIS sa chi è, mentre Putin sa chi è, sa cosa vuole, noi non sappiamo più chi siamo e non sappiamo cosa vogliamo. Ecco, ti chiedo solo di spendere qualche parola ancora su questo, perché capisci che è un orizzonte in cui, così amaro e critico, che sembra che è meglio che non ce ne occupiamo più di queste questioni, le deleghiamo ad altri. Però tra 60 secondi, intanto strada. La la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta per commentare i due documenti con tesi diverse approvati stamattina e recepiti entrambi dal Parlamento sulla questione del riconoscimento della Palestina e che cosa chiedere o non chiedere al Fatah e a Hamas. Gianni Riotta è nostro ospite e l'altro ieri ha scritto: a questi tavoli si conta qualcosa se si sa chi è, chi si è, e se si sa che cosa si vuole. Meglio rinunciare a delegare ad altri visto che non lo sappiamo? Oscar, qualche volta mi chiedono nei dibattiti: ma allora lei vuole la guerra? E io sorrido e dico: no, veramente è Putin che vuole la guerra, che la fa infatti in Georgia, in Ucraina, in Cecenia, ma veramente ISIS che vuole la guerra, che la fa in Iraq, la fa in Siria, la vuole portare in Turchia, non è che siamo noi. E purtroppo noi italiani ci abbiamo tanti di quei guai, che pensiamo che il mondo non ci riguardi più. Ieri o ieri l'altro sul New York Times Tom Friedman ha detto: bravissimi, i romani si sono messi a scherzare sull'ISIS, venite a occupare Roma e resterete bloccati sulla via Tiburtina, e lodava queste battute degli italiani e dei romani. Io le loderei se accanto a queste battute poi noi ci dessimo una mossa per fare quello che dobbiamo in Libia, in Siria, in Iraq, invece non lo facciamo, e quindi ho l'impressione che pensiamo di cavarci all'italiana, cioè che tutto il mondo si aggiusta alle sue partite difficili e nel frattempo noi vendiamo prodotti di esportazione a questo e quello. Non funziona così, purtroppo. No, non funziona così, sono abbastanza d'accordo, ma dovendoti proprio chiedere un'opinione secca, secondo te è il momento giusto di dimenticarsi le differenze che ci sono tra Hamas e Al-Fatah oppure no? Ti rispondo molto sinceramente, e questo è un momento in cui bisogna guardare al nemico principale, per cui oggi il nemico principale è ISIS e quindi e ci serve l'Iran per capirci. Sì, purtroppo serve una mano dagli sciiti, cosa che Mabonino ha detto tante volte, ma ti dico anche di più: io sarei in questo momento perfino per una tregua in Siria, perché con una tregua in Siria tu almeno stabilizzi quel fronte lì, e idem sentire con la Libia. Purtroppo non è che una buona scelta, è una pessima scelta, però in questo momento trascurare ISIS significa trovarselo 10 volte più forte da 2 anni. Allora, intanto grazie Generale anche per la sincera amarezza di questa considerazione. Sentiamo Enrico da Torino come la pensa. Enrico, prego. Buongiorno, ma io sono decisamente d'accordo con Riotta, cioè per me Hamas e Fatah non devono essere riconosciute assolutamente in questo momento, finché loro non faranno la pace con Israele assolutamente non potete parlare. Che poi la Svezia abbia fatto è librissima di averlo fatto. Aspetta però, aspetta Enrico, Gian, io ho detto questo all'inizio, io sono perché con Hamas non si tratta, sono terroristi, ecco, questa è la mia opinione, però Gianni ci ha detto: adesso concentriamoci sul nemico principale che è ISIS, che è sunnita, e quindi siccome Hamas significa Iran, noi abbiamo bisogno anche di quelli contro ISIS, quindi quale di queste tue due tesi abbracci, Enrico, la sua o la mia? Ma certamente bisogna assolutamente eliminare ISIS, però come fanno la politica italiana che dice mandiamo 5.000 uomini, ma farete, devo mandare 50.000 e ben armati, e con l'intenzione di far fuori, di eliminare assolutamente ISIS, ecco. Non 5.000. Questo naturalmente credo che non avverrà mai. Sentiamo Luigi da Cesena, prego Luigi. Ciao Luigi, ciao Oscar, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Renzi mi ricorda l'equidicinanza di Andreotti, che poi ci ha prodotto dei bei regalini tipo Achille Lauro o Sigonella. Non si può tenere il piede in due staffe, Luigi, questa è la mia opinione secca, può valere quello che può valere, però comunque grazie, continuate con Radio 24, soprattutto non perdetevi domani dalle 10 alle 12 i conti della Belva, quasi tutta sul fisco, e poi sui notai e avvocati, domani alle 10 i conti della Belva.